30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Fino ad oggi il più vasto stato dell'Africa, il Sudan, si avvia a dividersi tra nord arabo musulmano e un sud africano e cristiano. Da solo il nuovo stato sarà grande quanto Francia e Germania messe insieme. Dopo il referendum dovranno essere affrontate questioni spinose, a partire dalla definizione delle frontiere della regione dell'Aibei, la più ricca di petrolio, e per questo motivo di tensione tra nord e sud. Ma resta irrisolto anche il nodo della gestione delle risorse idriche, che coinvolge anche altri paesi, come le Egitto. Buonasera e ancora benvenuti al nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo di Sudan, dunque questo gigante al centro dell'Africa. Ne parliamo con Mario Raffaelli, presidente della sezione italiana di AMREF, ma già sottosegretario agli affari esteri, incaricato dell'Africa, ma anche capo mediatore per il Mozambico tra il 90 e il 92, una grande vicenda per l'Africa ma anche per l'Italia, inviato speciale per il Corno d'Africa tra il 2003 e il 2008. Insomma, Raffaelli, la sua esperienza l'ho chiarita sul territorio. La prima domanda che le vorrei fare è: quanto è delicata la questione sudanese per l'equilibrio in Africa? Ma è delicatissima sotto tanti aspetti, in primo luogo per appunto il Sudan stesso, anche perché l'accordo che ha portato a questo referendum ha segnato la chiusura di una vicenda terribile durata decenni di scontro fra il nord musulmano e il sud cristiano, e adesso arriva il momento della verità, cioè il momento in cui si potrà vedere se gli accordi siglati a Nairobi nel 2004, che prevedevano appunto alla fine del periodo di transizione un referendum con il diritto della secessione, potranno produrre una situazione di stabilità. Quindi tema delicatissimo per il Sudan e per l'importanza che il Sudan ha, come lei ha ricordato, ma è importante per la regione, perché purtroppo il Sudan si trova in un'area, quella del Corno d'Africa, che è al momento forse l'area più instabile, più delicata di tutta l'Africa. Io ricordo che quando negli anni 80, appunto come sottosegretario, andavo in Africa, sia in Corno d'Africa che in Africa australe, la situazione era analoga nel senso negativo. Oggi, molti anni dopo, vediamo che mentre in Africa australe la situazione sta evolvendo in maniera molto incoraggiante, sia sotto il profilo della stabilità che dello sviluppo economico, in Corno d'Africa rimangono ancora queste tensioni, che sono di varia natura, specifiche come nel caso del Sud Sudan, oppure di carattere più generale come quelle che nascono dal confronto in quest'area tra mondo arabo, mondo africano, e anche con il problema del terrorismo, che molto spesso in Sudan ha dei riflessi, diciamo, di rimbalzo. Ecco, il Sudan è al centro di molte cose. Forse è opportuno ricordare che le frontiere sono a nord con l'Egitto, poi a oriente con l'Eritrea e l'Etiopia, oltre che con il Mar Rosso, che di per sé è una frontiera a parte. Poi naturalmente c'è il Kenya mentre scendiamo verso sud, l'Uganda, il Congo. Quando sentiamo parlare, e qui a Radio 24 lo facciamo abbastanza spesso, del Kivu e dei grandi movimenti di questi eserciti disbandati, bene, parliamo proprio di quella zona del Congo, con il Centrafrica, il Chad e per finire la Libia. Ecco, certo, al centro di ogni cosa. Una domanda: come mai Khartoum ha accettato l'ipotesi stessa di perdere questa parte importante del territorio? Come si è arrivati in un minuto a questo? Ci si è arrivati grazie a una pressione internazionale molto forte. Il Sudan aveva grandi problemi perché, dopo aver ospitato Bin Laden, era stato messo nella lista degli stati che supportavano il terrorismo, con le conseguenze negative che questo comporta, e quindi, diciamo, è stato molto sensibile alle pressioni da parte occidentale, in particolare da parte degli Stati Uniti, nel trovare prima un accordo appunto di pace con il sud cristiano e poi l'accettazione di una strada verso la transizione. Ecco, proprio al centro di questo gigante c'è quella che una volta era la provincia del Kordofan, che a sua volta è stata smembrata in varie parti, ma insomma ci sono i pozzi di petrolio e c'è un fiume, non dimentichiamolo, che si chiama Nilo e che da solo è una ricchezza inestimabile per tutta la regione. Sì, lì purtroppo, come spesso accade, le previsioni che erano contenute nell'accordo siglato a Nairobi non sono state, diciamo, trasformate e concretizzate in tempo, perché secondo quanto previsto dall'accordo le frontiere avrebbero dovuto essere definite prima del referendum, e invece in questo caso, come in altri, in altre clausole che erano previste, ci sono stati dei ritardi. Però è un aspetto importante proprio verificare come, nonostante questi ritardi che avrebbero potuto essere utilizzati da al Nord Sudan come un, diciamo, una scusa per non tenere il referendum, contestarlo, spostarlo, non abbiano provocato questo effetto negativo. Quindi, diciamo, il primo fatto molto positivo è che, nonostante previsioni che c'erano anche di segno opposto, il referendum si è tenuto in maniera diciamo come previsto, c'è stata un'alta partecipazione, si è superato il 60% che era una condizione per renderlo valido, e quindi, diciamo, il primo passo è stato fatto. Ovviamente bisogna vedere quanto questo risultato, oltre ad essere accettato formalmente dal Nord Sudan, potrà portare ad un clima diverso nel quale queste questioni delicate che rimangono aperte possano essere risolte. Ovviamente, per quanto riguarda il petrolio, anche qui l'elemento positivo è costituito dal fatto che esiste un accordo sulla divisione, diciamo, degli utili. E quindi questo sdrammatizza un po' il problema che stabilisce delle che comunque vada una parte degli utili del sud, sì, vadano a nord. Assolutamente sì, anche perché, diciamo, la situazione consiste nel fatto che la gran parte del petrolio è al sud, però il nord ha i mezzi per utilizzarlo, perché non avendo il Sud Sudan uno sbocco al mare, si parla adesso della possibilità di un accordo con il Kenya per aprire a Lamu, vicino a Lamu, diciamo, uno sbocco, però in ogni caso si parla di anni, e quindi per poter utilizzare questa ricchezza il Sud Sudan ha bisogno di un accordo con il Nord per usare gli oleodotti che portano a Port Sudan, e questo, diciamo, facilita, però certamente è una fase delicata. Ecco, quando ascolto Mario Raffaelli che spiega effettivamente quanto, in realtà mi sembra di capire quanto sarebbe tutto più semplice se queste due parti nascenti, o meglio il sud nascente e il nord e il sud, trovassero un accordo anche sullo sfruttamento del petrolio, mi viene immediatamente in mente un vicino, o meglio un doppio vicino, l'Eritrea e l'Etiopia, una situazione che per molti versi poteva essere analoga a una separazione. In quel caso era l'Eritrea, la provincia che si separava, lo sbocco sul mare che veniva privato al gigante Etiopia. Ecco, purtroppo dal 93, l'anno del referendum per l'indipendenza, in realtà sono state due guerre e non operazioni congiunte. Come mai, secondo lei, il Sudan potrebbe veramente essere diverso? In questi anni hanno insegnato qualcosa anche alla regione, ai governi che storicamente, insomma, diciamolo, in passato hanno preferito l'opzione militare a qualsiasi altra? Beh, questa è la questione decisiva, e qui si misurerà la capacità, l'evoluzione dell'Unione Africana verso un ruolo, appunto, che sia in grado di favorire questi processi di stabilità regionali. Perché mentre la questione del petrolio riguarda, appunto, i rapporti fra nord e sud, la questione, per esempio, dell'acqua che lei ha citato prima riguarda invece un insieme di stati. Da una parte l'Egitto, come le ricordava, che utilizza circa l'80% delle acque del Nilo e che considera ovviamente queste acque una risorsa vitale per il paese; dall'altra parte gli interessi degli altri paesi dove il Nilo nasce e che hanno uno scarso utilizzo di questa risorsa, in particolare l'Etiopia e l'Uganda, che avendo un processo, in particolare l'Etiopia, di crescita sia demografico, parliamo di 60 milioni di persone oggi, che economico, possono entrare in conflitto per l'utilizzo di questa risorsa. E quando, appunto, la questione va oltre l'interno di un paese, ma coinvolge gli altri paesi, è decisivo l'intervento internazionale, sia quello africano che quello, diciamo, della comunità internazionale in senso più ampio. Finora questo intervento costruttivo, positivo, c'è stato, ed è questa la premessa per quanto sta accadendo di positivo finora, perché sia l'Unione Africana, che ha costituito un apposito panel di alte personalità per seguire tutto il processo, diciamo, precedente e successivo al referendum, e sia la comunità internazionale, con in primo luogo gli Stati Uniti. Ricordiamo che il presidente Obama addirittura convocato a settembre una riunione a latere del Consiglio dell'Assemblea Nazionale Generale delle Nazioni Unite con le parti in causa, ha nominato due inviati personali che seguono sul campo il processo, il Presidente della Commissione Esteri degli Stati Uniti è sul terreno per appunto dare il suo contributo, quindi un interesse che nasce sia da questo ruolo strategico del Sudan e sia anche dal fatto che c'è una grande sensibilità nei confronti della componente cristiana da parte di un largo settore dell'opinione pubblica americana. Ecco, il problema è che questa attenzione non venga meno una volta esaurito il dato formale del referendum, ma rimanga costante e rimanga in coordinamento fra la componente più propriamente africana e quella internazionale. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli. Questa sera parliamo dunque di questo gigante africano che è il Sudan, che in queste ore di fatto si divide, insomma lascia partire questa parte enorme peraltro del Sud Sudan. Ne parliamo con Mario Raffaeli, che vi ho ricordato oggi è presidente della sezione italiana di AMREF, è stato sottosegretario agli affari esteri, esperto mediatore per il Mozambico, una vicenda molto importante, anzi una vicenda chiave è stata per l'equilibrio dell'Africa australe, ma anche inviato in Corno d'Africa per diversi anni. Insomma, Raffaeli, parlavamo del ruolo anche di una sorta di great game, si è storicamente parlato del great game nell'Africa, nell'Asia centrale nel secolo scorso, ma qui sicuramente ci sono ragioni di interesse che spingono alcuni grandi attori, da una parte gli Stati Uniti, ma dall'altra la Cina, sono sempre più presenti, sono disponibili a costruire strade, oleodotti. Ecco, lei che osserva da vicino questa realtà, come si sta sviluppando questa dinamica? Ma non c'è dubbio che l'interesse della Cina per l'Africa è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Basti pensare a un dato che mi ha colpito recentemente, quando ho saputo che in Africa in questo momento lavorano 1.200.000 cinesi. Credo che nel momento di massima espansione l'impero britannico non avesse più di 200.000 inglesi che vivevano permanentemente in Africa. Cito questo dato perché molto spesso si pensa alla presenza cinese in Africa come era all'inizio, cioè solo come una presenza un po' disinvolta, diciamo legata semplicemente all'ottenere delle risorse in maniera rapida e con un rapporto non strutturato. Questa non è più la realtà. La Cina ormai ha sviluppato una sua politica organica per l'Africa. Basti pensare che ormai siamo al quarto vertice tra le massime autorità cinesi e 47 leader africani a livello di presidente o di primo ministro, e accanto appunto all'interesse diretto per le materie prime che sono essenziali per lo sviluppo della Cina, c'è ormai appunto una cooperazione a tutto tondo che comporta una serie di interventi organici e mirati. Quindi è una competizione di fatto nella quale l'Europa cerca di inserirsi anche come elemento, diciamo, per articolare un confronto che altrimenti rischierebbe di essere bipolare. Ecco, su questo punto AMREF peraltro è una ONG che nasce nel Regno Unito, britannica, ma di fatto che assume un ruolo internazionale, come accade, prego. No, AMREF no. Nasce in Kenya. Kenya. Alcuni medici britannici che vivevano in Kenya dettero vita a Flying Doctors, che oggi è una componente di AMREF, ma è all'origine. Poi, col tempo si è strutturata con questa dimensione multinazionale, che però costituisce la caratteristica unica rispetto alle altre organizzazioni di essere appunto basata in Africa e di avere le AMREF nazionali, AMREF Italia, AMREF UK, Stati Uniti, Francia, eccetera, che raccolgono i fondi, il supporto, aiutano l'AMREF africana nel scegliere e elaborare i progetti, ma poi la responsabilità per l'implementazione è loro. Quindi la testa è a Nairobi. Assolutamente, la testa e il corpo, perché anche l'85% delle persone che lavorano per AMREF sono africane e lavorano in Africa. Questo nasce dalla convinzione che ormai è diffusa, ci sono voluti molti che anni. Sono gli africani che devono prendere in loro mani il loro destino, noi possiamo aiutarli, ma evidentemente sono loro i protagonisti. Ecco, su questo punto gli africani hanno anche faticato un po' ad assumere un'altra parte di questa responsabilità, soprattutto quando si parla delle delle leadership. Proprio in questi giorni vediamo intorno a noi, basta volgersi a sud e vedere cosa accade in Tunisia, dove al di là del contesto specifico ci sono anziani leader che cambiano costituzioni, che non mollano il potere. Questa è la nota dolente di tanti paesi africani, basta citare l'Eritrea, dove siamo passati, diciamo, qualche momento fa. Lei che osserva l'Africa ad alto livello, a livello istituzionale, oltre che sul terreno, vede un cambiamento positivo oppure purtroppo si racconta sempre la stessa storia nelle cancellerie africane? Ma io credo che si debba parlare più che di Africa, di Afriche, nel senso che, come dal punto di vista, diciamo prima, della stabilità, dello sviluppo, ci sono realtà completamente diverse. Anche sotto questo profilo l'Africa non è omogenea. Se penso appunto a quando nei primi anni Ottanta io andavo nei paesi africani, in alcuni casi appunto trovo a decenni di distanza le stesse persone, in altri si sono alternati due o tre generazioni. Prendiamo di esempio gli antipodi, quelli che ha citato adesso. Feci in tempo a conoscere Bourguiba, addirittura pensionato Tunisia, da Ben Ali, esattamente, pensionato da Ben Ali, e Ben Ali, che doveva essere un, diciamo, presidente transitorio in momento di emergenza, appunto lo troviamo ancora in Tunisia e pronto a cercare di un passaggio all'interno della propria famiglia. Insomma, ho citato gli esempi negativi, come l'Eritrea, certo, dove personalmente il presidente del 93 mi disse: io non sarò come gli altri leader africani, darò spazio alle opposizioni. Non è accaduto, però è vero che in Ghana e altri esattamente paesi... Io stavo per fare l'altro esempio, ecco, all'altro posto, e vedo che abbiamo la stessa opinione. In Ghana addirittura abbiamo già avuto due o tre passaggi democratici, non solo, diciamo, con il cambio dei leader, ma anche con il cambio degli schieramenti, che è un elemento ancora più importante, perché, diciamo, ci sono due gradini nella scala del rafforzamento della democrazia. Uno è il ricambio del leadership, l'altro è il ricambio all'interno di schieramenti che si alternano, cosa che non sempre accade. Ecco, risposta secca: su questo fronte sudanese lei è ottimista dunque? Io non sono mai per professione ottimista, nel senso che non posso permettermi di essere né ottimista né pessimista. Credo che fino ad oggi le cose siano andate nel modo migliore, e questa è la premessa per andare avanti. Insomma, le premesse ci sono, le complessità sono sul terreno. D'altra parte, mi scuso se lo ribadisco, ma insomma la geografia pesa nelle storie. Quando si parla di un paese così grande, con queste frontiere, che di fatto deve relazionarsi in maniera proprio diretta con figure così lontane come può essere il regime di Gheddafi e quello appunto a sua volta enormemente complesso del Congo. Insomma, un paese pretendere che sia organizzato e chiaro come magari certi piccoli paesi europei è difficile. Le divisioni sono complesse, la storia ce lo insegna, l'Europa stessa non ha visto divisioni serene, e forse ci è voluto Václav Havel in Cecoslovacchia per fare qualcosa di funzionante. Ecco, il Sudan ancora una volta però si trova di fronte, o meglio si trova a raccogliere tutti gli sguardi del mondo. Ecco, quali sono secondo lei i passi prossimi da osservare, da auspicare perché il percorso proceda nel miglior modo possibile? Sono essenzialmente due. Uno, il supporto al processo stesso, in modo che queste questioni che abbiamo accennato, che sono rimaste aperte, che non sono le sole, c'è anche un problema che riguarda la cittadinanza dei cittadini del sud che vivono nel nord, che sono moltissimi, e che riguardano il tipo di convivenza e di cooperazione che è essenziale rimanga fra le due entità. Quindi c'è tutto un processo da portare avanti, e questo, come ho detto prima, comporta una continuità, evitare un calo di attenzione una volta finiti i fuochi d'artificio del referendum della comunità internazionale. Poi c'è un fronte interno, perché l'altra difficoltà che affronta il Sudan è dovuta al fatto che, mentre la popolazione è assolutamente compatta nella sua larghissima maggioranza a chiedere l'indipendenza, poi ci sono delle divisioni accumulatesi anche in questi anni, che sfruttando le questioni claniche, tribali, potrebbero portare a una fragilità del governo, perché diciamo, la situazione interna al Sud Sudan, sociale, economica, è molto molto difficile. Questo come, diciamo, eredità della guerra che è durata questi decenni, dalla mancanza di strutture anche elementari, strutture di base sanitarie, sociali, infrastrutture, non esistono strade praticamente, e di una classe dirigente, perché, diciamo, il partito leader che porta avanti questo processo del referendum è un partito che nasce dalla guerriglia e quindi che non ha una classe dirigente adeguata. Di conseguenza l'altro grande fronte è il supporto, perché appunto si vada incontro a queste esigenze e ci sia immediatamente un dividendo visibile della nuova situazione. AMRF, per esempio, dà un sostegno nel sud del Sudan, nella zona di Equatoria, per la formazione del personale parasanitario. Cito questo come un esempio appunto di mancanza assoluta. Esiste una sola scuola di formazione per personale parasanitario, questa scuola che noi supportiamo, in un paese che ha le dimensioni che lei ha ricordato. Insomma, molto da costruire, molto da fare. Noi cercheremo, appunto, anche grazie a ospiti come Mario Raffaeli, di tenere l'attenzione anche su queste parti magari lontane del mondo, ma che sono, come credo abbiate condiviso con noi, importanti non solo per chi abita laggiù. Grazie dunque Mario Raffaeli di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. E grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo solamente radio24.it come sempre per sentire e risentire le trasmissioni della nostra emittente. Buon fine settimana a tutti.